nello stesso giorno, sullo stesso giornale, c'è la pubblicità della videocassetta del Tagliaerbe e c'è la pubblicità del film Il Tagliaerbe 2. Ero già perplesso per la prima, che diceva: era uno scemo, sognò di diventare Dio. Dove non si capisce bene il rapporto di causa ed effetto, no? Sogna di diventare Dio perché era uno scemo perché sognava di diventare Dio, oppure le due affermazioni sono indipendenti ed è da considerarsi del tutto accidentale il fatto che uno scemo sogni di diventare Dio. Boh, sia quel che sia, la mia perplessità direi che è aumentata leggendo la seconda pubblicità. Dio lo fece umano, la scienza ne fece un Dio, adesso è tornato. Non si sa bene dove fosse andato, ma se metto assieme le due informazioni ne deduco che Dio ne aveva fatto uno scemo e che la scienza gli ha dato i sogni giusti. Chi segue con passione questo genere di film sa che la scienza in questione è quella tecnologia informatica che di risultato in risultato è giunta a parlare di realtà virtuale. Trattasi di metafora palesemente aristotelica, dal dubbio fondamento epistemologico. Già non sta in piedi la realtà in quanto tale, che in filosofia è il nome di un originale esterno inconfrontabile con una coppia interna. Figuriamoci dunque una realtà virtuale, ovvero una realtà il cui valore o la cui forza, in termini di filosofia scolastica, sarebbe in potenza e non in atto. È curioso allora come questo peso cattolico antico schiacci tutt'oggi l'immaginario collettivo. Due pubblicitari, presumibilmente diversi perché pubblicizzanti due prodotti in definitiva diversi, sono indotti ad attingere al medesimo repertorio. In un mondo in cui l'erba è soltanto il segno distintivo del padrone, sembra essere strettamente conseguenziale che il tagliaerbe sia il servo, lo scemo, il beato povero di spirito, al quale soltanto è dato di averci a che fare con Dio.